Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente puntata quasi tutta concentrata sulle decisioni emerse dal Consiglio dei Ministri di ieri e quindi via l'IMU per quest'anno sulle prime case, i terreni, gli immobili agricoli, per i capannoni deducibilità del 50%, ma soprattutto la cosa che oggi fa più discutere, e non solo a livello politico, riguarda la service tax, quindi dal 2014 la tassa complessiva che accorpora TARES e tasse sugli immobili gestite dai comuni. Poi vedremo anche le coperture. Faccio subito notare che quello che oggi fa discutere non è tanto il fatto, non è solo il fatto che dentro la service tax comunque sia presente la dicitura tasse sugli immobili, ma le dichiarazioni rese questa mattina da vari esponenti, mi riferisco da un lato al vice ministro Fassina, ma dall'altro anche al ministro degli affari regionali Delrio, che ha detto: attenzione, la nuova imposta locale sui servizi dovrà essere meno pesante della somma di IMU e TARES, e va bene, però Fassina aveva già detto, e Delrio gli ha dato ragione, che a questo punto la cancellazione dell'IMU renderà irrimediabile l'aumento dell'IVA, e questo chiaramente scontenta, per essere buoni, molte categorie produttive, anche perché proprio ieri commentavamo il dato sui consumi italiani ancora in calo per il 15° mese consecutivo, e cali che a questo punto sono del 3% per quello che riguarda giugno sui consumi, e riguardano tutti i generi, con una parte più forte su alcuni generi alimentari, ma soprattutto anche abbigliamento e spese per l'auto, ma molto più contenuto, ma comunque in calo anche la spesa per altri settori. Perché lo dico? Perché è chiaro che la polemica si sta spostando sul fronte, beh, intanto quanto forte sarà il prelievo della nuova tassa, la service tax, ma soprattutto se fosse e avesse un senso levare l'IMU per poi comunque arrivare a un aumento dell'IVA che va a colpire direttamente i consumi. Alcuni possono dire in maniera proporzionale, perché chi più spende più paga l'IVA, però è anche vero che vanno a colpire i consumi in maniera indiscriminata, senza guardare a quello che è il reddito. Mentre a mio avviso nell'IMU, fermo restando che abbiamo un catasto che è così vecchio, così lacunoso, che fa pagare IMU diverse a appartamenti di ugual pregio o addirittura IMU più alta a appartamenti di minor pregio, però è anche vero che l'IMU si applicava, cioè aveva una sua ipotesi, un minimo patrimoniale. L'IVA va a colpire tutti i consumi e, ripeto, anche i consumi dei meno abbienti. Dubito dalle dichiarazioni di oggi che si possano trovare anche le risorse per eliminare l'aumento dell'IVA, ma di questo appunto parleremo. Parleremo anche con il sindacato degli inquilini, perché il timore di Sunia, Sicet e Uniat è che i costi dell'operazione IMU vengano scaricati anche parzialmente sugli inquilini, e quindi aumentare in maniera esponenziale gli sfratti per morosità, perché aumenterebbe il costo dell'abitazione, e dicono sostanzialmente basta che non venga scaricata parte dell'IMU su chi paga l'affitto della casa. E da questo punto di vista vale anche la pena ricordare come invece sul fronte politico vero e proprio il superamento dello scoglio dell'IMU abbia rappresentato, poco fa la dichiarazione del Premier Letta, un consolidamento della tenuta dell'esecutivo. Questo non sfugge a nessuno, non sfugge neanche ai mercati, dove oggi, poi parleremo di altre cose dei mercati, lo spread italiano, anche in seguito all'asta di oggi, BTP a 5-10 anni collocati per 6 miliardi di euro, 3 miliardi e mezzo per la precisione con scadenza a dicembre 2018, e un tasso in leggero rialzo al 3,38% e 2 miliardi e mezzo di BTP con scadenza a marzo 2024 con un tasso del 4,46%. E i tassi sono risultati, cioè quello che noi abbiamo dovuto offrire è leggermente in salita per trovare compratori sul nostro debito, ma lo spread tra il BTP e il Bund tedesco è sceso sotto i 250 punti base e il differenziale tra noi e la Spagna, che si era annullato ieri e l'altro ieri, è tornato a essere a 15 punti. Faccio notare però che a inizio anno e fino a 2-3 mesi fa la differenza tra noi e la Spagna era di 100 punti a vantaggio dell'Italia, cioè noi pagavamo un punto percentuale in meno per offrire titoli sul nostro debito. Il ridursi di questa differenza, secondo molti osservatori, è dovuto al fatto, da un lato, che la Spagna ha dati economici, alcuni li commenteremo, migliori o comunque in miglioramento, dall'altro al fatto che l'incertezza politica italiana di fatto abbia fatto ridurre la differenza tra noi e la Spagna, rendendo l'Italia a rischio, tra virgolette, come la Spagna. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 è il numero per i vostri SMS e poi, come sempre, la pagina di Focus Economia su Facebook. Iniziamo con le notizie in breve. No, rispondo subito ad alcuni ascoltatori. Non mi sono dimenticato che gli italiani sono un popolo di proprietari di casa. Noi abbiamo un tasso molto alto di proprietari di casa, l'80%. Ho solo detto che non so quale sia il male minore o il male peggiore tra un'eliminazione dell'IMU, che in un paese normale avrebbe anche un suo senso proporzionale, perché se il catasto non fosse questa cosa, diciamo, borbonica con cui abbiamo a che fare, uno va a pagare un po' di più sulla casa di maggior pregio, ma ripeto, non so se il male minore sia aver eliminato l'IMU o beccarsi l'aumento dell'IVA, che è vero che ha un carattere proporzionale, perché chi più spende più ha disponibilità economica, più paga l'IVA, ma è anche vero che va a colpire numerosi prodotti di largo consumo e che vengono utilizzati anche da chi ha un basso reddito o comunque non ha un grosso potere d'acquisto. Ho posto il dubbio perché mi sembra evidente dalle dichiarazioni di Fassina e di Del Rio di oggi che i soldi per l'IVA, a questo punto il governo, per eliminare l'aumento dell'IVA, non li ha. Comunque andiamo con ordine, partiamo dai mercati. Mercati oggi più che tranquilli, anche perché, come avete sentito, l'eventuale attacco americano alla Siria si sposta in là. Adesso le ipotesi sono, diciamo, tra il fine settimana o dopo lunedì. Comunque più 1% Milano, più 0,70 Parigi, più 0,40 Francoforte, più 0,90 Londra, più 0,50 in questo momento gli Stati Uniti. Tutte positive quindi le borse. Da noi guadagna parecchio Salvatore Ferragamo, più 5,1% e Mediaset più 5%. Chiaro che oggi Mediaset si avvantaggia, così come se ne svantaggiò nei giorni passati, del venire meno delle tensioni sulla tenuta del governo. G-Tech ex Lottomatica più 4,35%, UbiBanca più 3,80%, TOZ più 2,90%, Intesa San Paolo più 2,60%, A2A più 2,40% come la Popolare Emilia Romagna, Mediobanca più 2,1% come Azimut, il 2% lo guadagna Luxottica e l'1,80% è il rialzo di Pirelli. Perde oggi Ansaldo STS, sempre sulle ipotesi di un interessamento della Cassa Depositi e Prestiti per evitarne la vendita, meno 1%, Exor meno 0,80%, Eni meno 0,60%, Finmeccanica meno 0,40%. E l'allentarsi delle tensioni, attenzione, nessuno sta escludendo l'attacco americano alla Siria, semplicemente rispetto a una data quasi certa si va verso almeno un posticipo, portano a una battuta d'arresto per l'oro in calo a $1,410 e anche per il petrolio, non di tanto, ma comunque un meno 0,6% a $109 al barile. Però l'effetto Siria si è già scaricato sui carburanti. Io non voglio rientrare in questa polemica sulla grandissima sensibilità che hanno i carburanti a qualunque tensione e grossissima resistenza o vischiosità, come dice chi ha studiato, quando c'è da abbassare i prezzi, che si trasferisca l'effetto Siria, che ancora deve iniziare, cioè deve in automatico sulla pompa di benzina, vabbè, dimostra che siamo di fronte a un mercato perfetto. Le medie nazionali di benzina e diesel sono a 1,839 euro per la benzina e a 1,740 euro per il gasolio. La benzina più conveniente resta quella di Eni a 1,835 euro, il diesel, quello della IP, a 1,731 euro. E adesso veniamo ad alcune notizie di carattere internazionale. Uno studio della Harvard University, pubblicato sulla rivista Science, quindi la Bibbia, diciamo, della scienza americana, dimostra come le ristrettezze economiche o anche il semplice pensiero di come arrivare a fine mese o la preoccupazione di non riuscire a pagare le bollette impoveriscano anche il cervello, riducendo il quoziente intellettivo di almeno 10 punti. Dice infatti la ricerca di Harvard, la sola preoccupazione, anche se temporanea, di restare senza soldi o di avere un problema economico ha un impatto immediato sulle proprie capacità cognitive. Ora, massimo rispetto per la ricerca, però se fosse così dovremmo avere una classe politica fatta di geni, di premi Nobel, e non solo, anche gli amministratori delegati, i manager, e avere, diciamo, il resto del paese su deficit cognitivi pesanti, visto che le preoccupazioni su come arrivare a fine mese riguardano buona parte degli italiani con il calo del potere d'acquisto. Non so, non riesco a vedere questa corrispondenza così forte. Dovrei aver incontrato solo persone molto abbienti, particolarmente intelligenti, persone con difficoltà a arrivare a fine mese particolarmente, diciamo, poco cognitive. Ahimè, nella mia esperienza personale, ma avrò avuto sfiga io, mi è successo anche il contrario, di conoscere persone molto abbienti e molto mona e persone con difficoltà arrivare a fine mese che invece avevano un bel cervello funzionante. Dico, vado a Harvard di magari verificare se in Italia le cose si muovono diversamente, boh. E poi un'altra notizia che riguarda invece la Cina: i giornalisti cinesi sono obbligati e saranno obbligati a tornare a scuola per almeno 2 giorni per imparare il marxismo. È contenuto in un regolamento diffuso oggi. Tutti i 307.000 giornalisti cinesi, non sono pochi, dovranno seguire lezioni di marxismo nelle redazioni dei grandi giornali per poi finire in quelli più piccoli. Prevengo la battuta, so già che secondo alcuni di voi, per i giornalisti italiani non vi sarebbe bisogno di nessuna lezione per un paio di giorni, perché già, diciamo, viste le accuse che fate, diciamo, la base del marxismo è ben presente in alcuni giornalisti italiani, quindi nessuna lezione in Italia. Comunque l'intento del Partito Comunista Cinese è quello di puntellare l'unità ideologica, uniformare sempre più l'informazione, questa è una tendenza che hanno spesso i governi, ed evitare la diffusione di notizie false, che poi sarebbero quelle sgradite di solito, più che false. Restiamo sull'economia internazionale un po' più seria. La Banca Centrale Brasiliana ha alzato di 0,5 punto percentuale il tasso di interesse dall'8,5 al 9%. Il PIL americano è cresciuto nel frattempo più delle attese nel secondo trimestre al 2,5%, con un buon aumento dei profitti delle aziende a stelle e strisce, più 4%, il maggior aumento dal quarto trimestre del 2011. E le spese del governo sono scese di 1 punto percentuale. Questo pone in maniera ancora più pressante quello che è il grosso dilemma dell'attuale numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke: quando iniziare a chiudere i rubinetti. La banca centrale americana sta stampando tuttora 80 miliardi di dollari al mese, 80 miliardi di dollari al mese stampati per tenere alta l'economia, per lasciare liquidità e far respirare l'economia. Prima o poi dovrà iniziare a chiudere questo rubinetto e rientrare su questo quantitative easing, come si chiama in gergo. I mercati sono molto spaventati da questo, perché vorrebbe dire la fine di questa grande liquidità presente su tutti i mercati, a partire da quello americano. Ancora, vabbè, non vi dico i messaggi che stanno arrivando. C'è chi dice: io dovrei essere praticamente impazzito, celebro leso, visto che è 5 mesi che aspetto di essere pagato dai miei fornitori. Secondo Harvard, e secondo la rivista Science sì, lei dovrebbe essere a un passo, diciamo, dall'essere così privo di facoltà intellettive dopo quello che abbiamo letto, ma in realtà sappiamo che non è così. Invece in Spagna, riagganciandoci a quello che dicevo in apertura, il secondo trimestre il PIL spagnolo ha moderato la caduta, ha fatto un meno 0,1%, è aumentato l'export spagnolo, ma soprattutto la cosa interessante è che è aumentata anche la domanda, o meglio, è rallentato il calo nella domanda interna, quindi anche i consumi spagnoli sono meno in difficoltà, forse alla luce anche di questo dato che oggi il commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn ha detto che l'economia europea ha raggiunto un punto di svolta, aggiungendo però che poi è assolutamente essenziale che l'Italia assicuri la sostenibilità della finanza pubblica. Italia, ad agosto è aumentata la fiducia delle imprese, l'indice è salito a 82 punti dai 79 di luglio ed è aumentata anche la fiducia dei consumatori italiani, e lo so, può sembrare strano, ma da 97 punti a 98 punti ed è il valore più alto dall'agosto del 2011. La nostra Maria Luisa Pezzali ha raggiunto Mauro Politi, che è direttore statistico economico congiunturale dell'Istat, chiedendogli in sostanza come mai, a fronte, diciamo, di un calo dei consumi che abbiamo raccontato ieri, c'è però un aumento della fiducia dei consumatori. Sono dati molto freschi, si riferiscono quindi al sentiment sia dei consumatori che delle imprese del mese di agosto. Per quanto riguarda i consumatori abbiamo un dato massimo a partire dall'agosto del 2011 e mostra quindi un sentiment positivo da parte dei consumatori. Mentre per quanto riguarda la fiducia delle imprese abbiamo andamenti positivi sia per le imprese manifatturiere che per quelle dei servizi che per quelle del commercio. L'unico settore leggermente negativo come diciamo giudizi qualitativi è quello delle costruzioni. Per quanto riguarda i consumatori ci sono valutazioni positive sia sul piano personale che sul quadro economico. Sì, esatto, migliora sia il quadro personale ma in particolar modo quello economico. Per quanto riguarda invece la temporizzazione sia il quadro corrente, quindi attuale, sia quello futuro per quanto riguarda i consumatori e le famiglie sono improntati alla positività. Come conciliare questi dati con i dati, gli ultimi sono stati diffusi ieri sui consumi che parlano invece di continui cali? Diciamo che i dati che abbiamo diffuso ieri sono i dati quantitativi sul valore delle vendite del mese di giugno, i dati che invece diffondiamo oggi è sulle le opinioni dei consumatori del mese di agosto, quindi sono due mesi successivi e sappiamo che le valutazioni dei consumatori quando vengono intervistate sono molto influenzate da quello che succede proprio nell'ultimo periodo. È un primo segnale che la ripresa può arrivare, dicono molti tecnici, molti osservatori, che non c'è ripresa senza fiducia. Sì, però per quanto riguarda i giudizi dei consumatori quando vengono intervistati sono sicuramente influenzati da fattori sia diciamo personali che da notizie che possono essere più positive di altre, tipo il rinvio di alcune tasse, il fatto che il governo continui. Insomma, il giudizio del consumatore spesso non è completamente diciamo indirizzato dai dati economici che invece gli specialisti diciamo apprezzano di più. Questa è la spiegazione, insomma, del direttore statistico economico congiunturale dell'Istat. Mi fa ridere un ascoltatore che dice: ma insomma ad agosto le imprese erano chiuse, a chi cavolo l'hanno chiesto? No, non è che sono tutte chiuse, anzi per fortuna ci sono imprese che hanno lavorato, non solo quelle che hanno chiuso e traslocato con grande sorpresa, per dir così, dei dipendenti, ma ci sono anche quelle che hanno chiesto turni in più perché avevano più ordinativi del previsto, per cui l'obiezione vale fino a un certo punto. Ma entriamo adesso nel vivo del tema di questa puntata e mi riferisco alla decisione presa ieri dal Consiglio dei Ministri. Ricapitoliamo velocemente. Quest'anno prime case, terreni, immobili agricoli non pagheranno l'IMU, esentate anche le case invendute e per i capannoni industriali deducibilità del 50% del versamento. Dall'anno prossimo arriva la service tax, che sarà gestita dai comuni, e a mio avviso questo è più che positivo. Comunque, chi se ne frega nel mio giudizio, accorpa TARES e tasse sugli immobili. Le coperture arriveranno, per quello che riguarda quest'anno, 1 miliardo dall'extra gettito IVA garantito dallo sblocco di 10 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione aveva nei confronti delle imprese, gli darà, lo spiegavamo ieri. Verranno pagate 10 miliardi alle imprese che li aspettano su 100 miliardi complessivi. Questo genererà dell'IVA, perché poi una fattura paghi lì, e quest'IVA qua lo Stato la incasserà, la messa in conto. 625 milioni arriveranno dalla sanatoria alle maxi multe a società che gestiscono le new slot. La multa originaria era di 2,5 miliardi, quindi, se ho ben capito, una specie di condono. Poi adesso chiederò a Lumi. E poi 600 milioni di tagli della spesa non precisati, accantonato per ora l'aumento delle accise dei carburanti, e anche questa è una bella notizia con i consumi che abbiamo. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 700 milioni per garantire la pensione ai 6.500 esodati e 500 milioni per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Allora, il Premier Letta, IMU cancellata dal 2014, service tax. L'IMU viene cancellata dal 2014, non ci sarà più appunto l'IMU come l'abbiamo conosciuta fino a oggi, nella linea dell'impegno che avevamo assunto quando è nato il governo. Quindi la riforma, il superamento, porta oggi alla fine dell'IMU. Dal 1 gennaio 2014 nasce la service tax, che unifica e che tocca la TARES anche, e quindi è un intervento che riguarda i servizi e non per l'appunto il concetto di proprietà dell'abitazione, così come fino adesso era riguardato per l'IMU. Quindi questa prima decisione è una decisione che verrà formalizzata nella legge di stabilità, quindi legge di stabilità che presenteremo il 15 di ottobre al Parlamento, e poi il Parlamento discuterà, modificherà e approverà la service tax. Verrà nel frattempo discussa con i comuni innanzitutto, e poi naturalmente col Parlamento, e nascerà dal 1 gennaio. Sulle coperture, le coperture saranno dovute in gran parte a riduzione di spesa pubblica. Un altro capitolo significativo verrà dal mondo, dalla tassazione che riguarda il mondo dei giochi, quindi quello che ho detto prima sul fatto che non si tratti di entrate è in parte scorretto, nel senso che su questo tema, però ovviamente è una cosa che riguarda non tassazione dei cittadini, ma che riguarda appunto il sistema delle imprese che vivono attorno al mondo dei giochi e delle scommesse. E un terzo capitolo delle coperture, e questa è l'ultima notizia che voglio dare del Consiglio dei Ministri di oggi, ma la metto in fondo, ma è molto importante, è dato dal fatto che abbiamo deciso di immettere nel sistema nuovi 10 miliardi di crediti che le imprese vantano nei confronti delle amministrazioni pubbliche. 10 miliardi di nuovi crediti che verranno subito immessi nel sistema, serviranno per creare più giro economico ovviamente, per creare occupazione, e naturalmente porteranno entrate fiscali di IVA che serviranno appunto a parziale copertura di questo provvedimento. Questo per quello che riguarda le misure prese e a questo punto anche le coperture. Il fronte più delicato, come dicevo, ha a che fare con la service tax, diciamo. Letta ci ha tenuto a precisare che comunque con il superamento dell'IMU verrà ottenuta una diminuzione del carico fiscale sulle famiglie italiane, che è uno degli obiettivi del governo. Però chiaramente resta il tema della service tax. Nella service tax, come ha chiarito il Premier, verrà proposta anche la deducibilità per le imprese e per i locali funzionali delle attività di imprese legate al no profit. C'è questo passaggio che vi faccio ascoltare. Sulla costruzione della futura service tax interverranno, cito in particolare, due concetti essenziali, che sono due impegni che ci siamo presi e che vogliamo mantenere. Ovviamente lo proporremo al Parlamento, discuteremo poi insieme al Parlamento. Due concetti sono: il primo, venire incontro al mondo delle imprese attraverso un meccanismo di deducibilità che ha a che fare soprattutto naturalmente con le aree, i fabbricati, scusate, funzionali alla produzione e all'attività di impresa. Era un impegno, abbiamo discusso lungamente col mondo delle imprese, e nella futura TARES questo tema dovrà essere un tema tenuto in conto. Nella nostra valutazione è uno dei punti essenziali della nuova TARES, che non deve andare appunto contro la produzione, la crescita, la produzione di PIL. E l'altro concetto, tutto il tema dei locali legati alle attività no profit del terzo settore, che oggi sono stati pesantemente penalizzati dall'IMU, che appunto li comprende, e che invece in prospettiva futura vogliamo nella TARES appunto completamente alleggerire. Allora, restiamo per ora su IMU e Service Tax. Se lo facciamo con una voce nota, e quindi Salvatore Padula del Sole 24 Ore. Buonasera Salvatore. Buonasera. Tu ne hai scritto oggi anche sul Quotidiano, che ha dedicato, lo ricordo, un lunghissimo approfondimento. Quante? 15 pagine avete 16 fatto? 16 pagine. 16 pagine. 16 pagine proprio su tutti i vari aspetti di quanto emerso ieri del Consiglio dei Ministri, che riguarda, ricordo, anche comunque lo stanziamento, lo ricordo di nuovo, per garantire agli esodati 700 milioni per garantire loro la pensione a 6.500 esodati e mezzo miliardo per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Vorrei concentrarmi dopo il meteo però sulla IMU copertura e questa service tax, perché i timori, diciamocela tutta, sono che con le tre carte, con la muinna, chi sta a poppa va proroga, chi sta a proroga va poppa, e poi alla fin fine sempre lì andiamo a caricare. Sentiremo poi anche gli inquilini i timori che hanno, e poi vorrei spostarmi con te sull'IVA, perché qui il dibattito politico, ma non solo, si sta spostando sull'IVA, dopo che Fassina ha detto: a questo punto abbiamo eliminato l'IMU, sarà impossibile eliminare l'aumento dell'IVA. Dopo il meteo, 349 238 6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. We can remember swimming in December, heading for the city lights, and I am 7'5". Allora, IMU, service tax e il rischio che l'abbassamento, diciamo, del prelievo fiscale sia risibile, marginale o fittizio. Salvatore Padula, primo aspetto, allora, alcuni chiarimenti che arrivano anche grazie agli sms e a Facebook. I capannoni, questa non è una cosa da poco, io dicevo capannone industriale di deducibilità del 50% del versamento, vale anche per altri esercizi commerciali? Sì, sì, allora, in realtà la deducibilità scatta già dal 2013, da quest'anno, e riguarda sia le imprese, e quindi diciamo le imprese vere e proprie, ma anche i piccoli artigiani, i commercianti, e riguarda anche gli esercenti arti e professioni, mm-hmm. quindi professionisti di ogni tipo. Ovviamente a seconda del regime di ciascuno, una volta andrà dedotta dall'IRES, un'altra volta andrà dedotta dall'IRPEF, con effetti diversi mm-hmm. a seconda della propria aliquota. Dicevo che la deducibilità scatta già per quest'anno, quindi diciamo se ne vedranno i benefici nelle dichiarazioni dei redditi che si presenteranno nel 2014. È limitata al 50% dell'IMU pagata, e su questo aspetto devo dire che forse si poteva fare qualche cosa di più. E poi non riguarda l'IRAP, quindi diciamo ai fini dell'IRAP nessun beneficio per quanto riguarda la deducibilità dell'IMU. Quindi diciamo, per dare una valutazione insomma, complessiva, sì, diciamo, considerato che per questi soggetti i rincari legati all'IMU nel 2012 e nel 2013 sono stati molto consistenti, si tratta di un beneficio apprezzabile, ma forse qualcosina in più insomma si poteva fare, insomma, perché questo insomma sarebbe una modalità per, certo, restituire come dire un po' di ossigeno, no, alle attività di impresa di qualunque genere. Non stiamo parlando solo di capannoni industriali, non solo di capannoni, certo, industriali, ma tutti insomma, ecco. E questo è il primo aspetto. Poi vedo tantissimi messaggi, ce n'è un altro ricorrente, riguarda le coperture, perché come chiarivamo il governo ha detto attenzione, insomma, le coperture per questi 2 miliardi che mancavano, 2 miliardi e 4 per la seconda rata dell'IMU, le troveremo nel seguente modo: 630 milioni della sanatoria. Quella è una sanatoria, è una specie di condono, ho capito bene? No. Sì, sì, no, hai capito perfettamente. Mi riferisco alle slot machine. Sì. Guarda, è una vicenda curiosa e vecchia, perché risale al 2005. C'è stato a quell'epoca un grosso contenzioso tra le società di gestione di questi apparecchi e i monopoli e il fisco, diciamo così, sì, nel senso che il fisco ha contestato a queste società una multa, una sanzione, perché non erano in regola con i collegamenti telematici tra le macchinette e la SOGEI, diciamo, sì, il cervellone elettronico del fisco. Tutta questa partita qui ha portato nel corso degli anni a una multa complessiva a tutte le società di 2,5 miliardi di euro. Adesso diciamo arriva questa, che è un importo ovviamente enorme, no? Arriva questa sanatoria, mi sembra abbastanza conveniente, per cui queste società potranno pagare, mi sembra entro metà novembre, il 25% della sanzione complessiva, quindi diciamo in totale 635 milioni di euro. Quindi questa è una parte consistente della copertura del decreto. L'altra, lo dicevi tu, arriva da questo sblocco di un ulteriore tranche di 10 miliardi di crediti delle imprese verso le pubbliche amministrazioni, quindi di debiti delle PA verso le imprese. Qui mi dicevi prima che qualche ascoltatore... Sì, no, qualcuno dice ma com'è possibile che arrivi un miliardo su 10 miliardi dall'IVA? Perché molti ascoltatori dicono ma quell'IVA lì, quella fattura non era già stata emessa e quindi... Sì, bisogna tenere presente che da un po' di tempo alcune imprese, a seconda delle dimensioni, possono operare in un regime di sospensione dell'IVA, cioè l'IVA per cassa, e quindi versano l'IVA nel momento in cui incassano la fattura. Quindi ricevendo il pagamento loro avranno, diciamo, l'obbligo del versamento della compensazione dell'IVA, e in questo modo si crea questo extragettito che il Ministero ha quantificato in un miliardo di euro. C'è un'altra cosa, secondo me, che forse non è emersa nel modo giusto oggi, ma ovviamente, e cioè che diciamo per l'IMU, a fronte di tanti benefici, che insomma di alcuni benefici che arrivano, no? Abbiamo sentito sulla prima casa di fatto non si pagherà più niente, perché la prima rata è stata abolita dal decreto legge approvato ieri, il governo si è impegnato ad abolire anche la seconda e a sopprimere l'imposta definitivamente dal 2014. Però sulle case sfitte, quindi sulle case a disposizione, le case di villeggiatura o in generale le case non affittate, la tassazione aumenta, un po' a sorpresa, ecco, diciamo, perché il governo ha reintrodotto la tassazione IRPEF e le addizionali che erano state soppresse con l'arrivo dell'IMU. Quindi chi ha una casa di villeggiatura o una seconda casa che non utilizza, che non ha voluto affittare, dovrà pagarci sopra l'IRPEF nel 2014. Posso dire una cosa che mi renderà, immagino, molto popolare con chi ha la seconda casa al mare e la casa sfitta? Dillo. Beh, dai, chiaro che l'aumento della tassazione è sempre sbagliato in un paese che ha questo prelievo fiscale su chi le tasse le paga. Però, dovendo andare a pescare, Allora, la seconda casa al mare di solito, so benissimo, l'obiezione delle volte è un'eredità dei parenti, lo so tutto, però insomma, non possiamo sempre pensare che la seconda casa al mare in montagna sia l'eredità dei parenti, tutti ricchi, meno, e mai anche giustamente il risultato di un lavoro, di un guadagno nella vita. Per quello che riguarda le case sfitte, sono ancora più d'accordo perché sappiamo in questo paese che molte volte la casa sfitta, Salvatore, ne avete scritto moltissime volte anche voi, è in realtà una casa affittata in nero, perché c'è sicuramente qualcuno che la casa non la usa né in montagna né al mare, ma la casa sfitta in periferia a Milano o a Roma o diciamo in altre città, è difficile che uno la tenga così per l'ipotesi o ha l'amante o se no, e quindi comunque non è sfitta. Per alcuni periodi, oppure la sta affittando in nero, per cui per favore cerchiamo di evitare la solita demagogia. Ecco la casa sfitta, affitta, la paga il canone. Tra l'altro, lì c'è anche Sì. un'iniziativa sul concordato, no? Sì, Sul. c'è una norma di agevolazione per chi affitta un'abitazione diciamo, ricorrendo ai canoni agevolati, ai cavoli concordati, pardon, concordati. In questo caso la cedolare secca passerà dal 19 al 15%, quindi diciamo Ok, un'agevolazione per allora chi oggi non affitta. riusciamo a fare tutto. Io però volevo ringraziare perché ci ha raggiunto in collegamento invece chi rappresenta una delle categorie che rappresentano gli inquilini in questo paese. E lo facciamo però dopo Aldo Rossi, segretario nazionale del SUNIA, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Buonasera, innanzitutto. Buonasera, grazie dell'invito. Prego, adesso io ho il traffico. Siete contenti? Perplessi, avete timore che paghino gli inquilini, gli affittuari invece dei proprietari? Guardi, dal punto di vista di quello che trapela sulla service tax, siamo molto preoccupati, questo è il dato di fatto, perché temiamo che questa operazione che è stata fatta sull'IMU, che in gran parte è anche un'operazione, come è stato detto, nominalistica, cioè dire si cambia un po' il nome, ma sostanzialmente l'anno prossimo ci dobbiamo aspettare una imposizione sulla casa, diciamo così. E secondo noi dal dibattito in parte ideologico su patrimoniale sì o patrimoniale no, secondo me è una finzione pensare che una parte di patrimoniale non possa rimanere. Se non è Però, una finzione, si scarica sull'inquilino e sì, questo però ci pare allora io assolutamente assurdo. Rossi, questo non lo sappiamo ancora. Comunque è giusto essere preoccupati perché voi rappresentate l'inquilino che Siamo obiettivamente. fortemente preoccupati anche perché non c'è chiarezza su questo Vabbè, allora aspetto. ne parliamo dopo perché io ho anche da fare i mercati, comunque ne parliamo dopo il traffico 349-238-6666 per gli SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Allora, service tax da un lato e il timore degli inquilini che diciamo, la service tax si scarichi soprattutto su chi la casa c'ha in affitto e non invece su chi l'ha di proprietà. Non posso rispondere invece a chi mi sta scrivendo che ha magari la casa in montagna e al mare ma non riesce a affittarla. Ho capito, ho solo detto che se bisognava collocare da qualche parte un inasprimento della tassazione, forse le case sfitte in città che spesso nascondono inquilini in nero e la seconda casa erano il male minore. Rossi, ci faccia capire che cosa, al di là della paura generica che questi soldi, siccome la service tax ancora è una nebulosa priva di un perimetro chiaro, però che cosa temete nel concreto? Mi dica. No, ripeto, noi la service tax è una nebulosa, ci sono esempi stranieri, ma non mi pare che si possano trasportare in Italia in maniera immediata, senza nessun approfondimento. Noi diciamo che per quello che riguarda la TARES, che già ci sarebbe stato un aumento a partire dal 2014, è evidente che questo è a carico dell'inquilino, del conduttore. Tutto per il resto, la nota del governo che ha accompagnato il decreto parla di una tassa servizi, esclusa la TARES, infatti ci sono quei due nomi nuovi, TASI e TARI, mi pare, e questa TASI si ripartirebbe, si dice, tra il Tasi, la proprietario Tasi, in giusto. quanto beneficiario di una valutazione maggiorata dell'alloggio in presenza di una serie di servizi e in parte sull'utilizzatore. Ora quindi tutto questo discorso qua ci lascia molto perplessi e preoccupati, tanto più che, ecco, mi faccia dire questa cosa, che invece valutiamo positivamente altre parti del decreto. E in particolare un'attenzione all'affitto che da anni non notavamo nei provvedimenti governativi, okay. Lo accennava già lei prima, il discorso sulla cedolare secca, il fondo sociale di sostegno agli affitti che era stato praticamente soppresso. E questi sono elementi positivi, anche perché la cedolare secca è un invito a fare un affitto non in nero, avendo un vantaggio fiscale. Comunque, per noi è positivo anche quello che sottolineava lei, e quindi trova qualche adepto anche lei da questo punto di vista. No, mi stanno massacrando gli ascoltatori, immagino, perché cioè, ma noi l'abbiamo promosso, ma non l'abbiamo promosso, non le amanti, sembrava un'anomalia. Manca solo che scrivono anche le amanti arrabbiate, perché c'è chi ha scritto: io la do a casa in montagna, altri al mare, non riesco a affittarla, sono 3 mesi che cerco. Ho capito, io non ho detto che sia giusto tassare la seconda casa, ho detto che all'interno, dovendo tassare qualcosa, forse la casa sfitta e la seconda casa in montagna. Mi dispiace se uno ha comprato una casa in montagna e non riesce a affittarla, figuratevi se sono contento. Poi c'è chi dice: è possibile che lei continui a dire stupidaggini, deve intervenire la Confindustria. Vabbè, penso che la Confindustria abbia anche temi più importanti, però mi piace. Con l'ICI era compatibilissimo. No, vabbè, adesso un attimo, Rossi. Francamente, a me piace quando uno, giustamente, con questo slancio democratico, fate intervenire la Confindustria, cacciatela. Va bene anche così, perché magari la seconda casa. Allora, Salvatore Padura, a parte che la TASI, essendo io veneto, è proprio la tassa per definizione, perché la paghi e TASI, no? Che è un po' l'andazzo sei in questo in forma, paese. Sei in no, non sono in forma, è che mi sto ripigliando anch'io dall'estate. Dico: è la tassa che paghi e TASI, e va bene, mancherà solo la tassa Musso per restare in argomento. Ma detto questo, i dubbi di Aldo Rossi, del segretario nazionale della SUNIA, sono... Parliamoci molto chiaramente, che voi su questo fate sempre un'operazione di trasparenza con i numeri alla mano su Sole 24 Ore. Sono dubbi reali o no? Inutile. Beh, sì, evidentemente sono dubbi reali. Noi, diciamo, siamo in un sistema che prevede l'IMU, che di fatto è una patrimoniale, quindi tassa il possesso, la proprietà di un immobile, e andiamo invece verso un sistema che non tasserà più esclusivamente il possesso. La service tax, della quale non sappiamo assolutamente nulla. Cioè, quindi solo il nome, solo il nome, esatto. Come un incontro, però al buio. Diciamo che avrà due componenti: una componente per i rifiuti, che già ora viene ovviamente pagata dall'inquilino e continuerà a essere pagata dall'inquilino, poi avrà un'altra componente che è chiamata per i servizi indivisibili dei comuni, quindi diciamo dall'anagrafe in giù o in su, che si voglia dire. Questa componente di imposta verrà molto probabilmente, ripeto probabilmente, verrà ripartita, non sappiamo in quali percentuali, tra chi ha il possesso dell'immobile, quindi il proprietario, e tra chi lo occupa, quindi l'inquilino. Quindi è evidente che andiamo in un sistema che tenderà a spostare una piccola parte, si spera piccola, o comunque non la so quantificare, una parte di tassazione anche, certo, sull'inquilino per i servizi offerti dai comuni. Allora, io invece vorrei adesso sentire, e su questa è una tua battuta rapidissima, nel ringraziare chiaramente Aldo Rossi, segretario nazionale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Grazie Rossi, e poi magari ci risentiremo quando avremo anche noi un'idea di cosa sarà la service tax. Vorrei ascoltare il passaggio invece che ha creato più polemica politica a questo punto, sull'IVA, perché dopo che questa mattina il ministro dell'Interno Angelino Alfano aveva detto adesso bisognerà evitare l'aumento dell'IVA, e beh, su questo invece Del Rio ha dato ragione a Fassina, dicendo che sostanzialmente non si riuscirà a evitare, dopo aver eliminato l'IMU, l'aumento dell'IVA. I principi che il governo si è dato in maniera preliminare, che verranno poi stabiliti meglio in legge di stabilità, sono che gli inquilini debbano avere un carico molto basso, che debba essere una tassa progressiva e quindi equa, che superi gli errori, le iniquità dell'IMU, che sia ampiamente manovrabile dai comuni. Quindi complessivamente la nuova imposta locale sui servizi dovrà essere certamente meno pesante, come ha confermato il Presidente del Consiglio, della somma di IMU più TARES, assolutamente. Noi dobbiamo in un qualche modo provare a ridare fiato all'economia e quindi ci impegneremo tutti. È altrettanto evidente che appunto avere dedicato molte risorse all'IMU creerà qualche problema in più sulla questione dell'IVA. Su questo il vice ministro Fassina ha perfettamente ragione. Allora, ci prepariamo a avere un aumento dell'IVA perché trovati questi 4 miliardi poi su base strutturale, perché vanno trovati anche l'anno prossimo questi 4 miliardi, se non vuoi reimpostare l'IMU sulla prima casa, l'aumento dell'IVA sarà a questo punto, come dice Fassina, irrimediabile? Allora, il rischio che si vada verso un aumento dell'IVA è ovviamente concreto. Se posso aggiungere un ulteriore elemento di incertezza, è il seguente. Il decreto approvato ieri copre i 2,4 miliardi erotti, insomma, per spicci, relativi alla prima rata dell'IMU che è stata soppressa per prima casa, eccetera, bravo, eccetera. Ma c'è una seconda rata dell'IMU, quella di dicembre, che dovrà essere coperta. Quindi noi avremo, diciamo, tra poche settimane il problema di reperire 2,4 miliardi per coprire la seconda rata dell'IMU agli stessi che non hanno pagato la prima, diciamo, certo, così. E avremo il problema di reperire 1 miliardo di IVA per evitare che il 1° novembre scatti l'aumento dell'aliquota dal 21 al 22. Quindi abbiamo, diciamo, malcontati 3 miliardi e mezzo, forse mancherà ancora qualcosa per la cassa integrazione, diciamo abbiamo circa 4 miliardi che vanno trovati. Per l'anno successivo abbiamo innanzitutto il grosso problema dei 4 miliardi di IVA che sarebbero legati all'aumento dell'aliquota dal 21 al 22, che su base annua vale appunto 4 miliardi. Quindi, diciamo, ieri il governo ovviamente ha fatto, se posso dirlo, un'operazione male, politica. Un'operazione politica, ha certo raggiunto una sorta di compromesso, insomma, che più o meno accontentava tutti e non faceva, diciamo, emergere nessun vincitore, nessuno sconfitto. Sì. Mi sembra che ancora una volta si sia spostato leggermente in avanti, di qualche settimana in avanti, il problema della copertura della di dicembre copertura. E poi quella complessiva 2014 è in cauda veneno, ma nella coda al veleno. La borsa, tanto oggi è successo poco, la rifacciamo domani, comunque più 1%, come vi dicevo in apertura, Ferragamo più 5,50, Mediaset più 4,80, Gtech più 4,70, Ubibanca più 3,70, Tods più 2,90, leggermente negativa Ansaldo STS meno 1%, Exor meno 0,70, Finmeccanica meno 0,66%, bene anche Parigi più 0,60, Francoforte più 0,40, l'America guadagna mezzo punto percentuale adesso, Londra lo 0,80%, grazie a Salvatore Padula del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.